Radio 24 e Fondazione Sigma Tau presentano Medius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza, con Federico Pedrocchi. È una specie di insalatiera, però molto grande, pesa 500 tonnellate, pensate un po'. E mentre pensate, ascoltate i titoli di questa nuova puntata di Möbius, alla quale ovviamente siete benvenuti e benvenuta. Messe in opera in Sardegna con un montaggio spettacolare, 500 tonnellate di radiotelescopio. Non sappiamo come si muovono gli elettroni, ma da poche settimane, con una ricerca italiana, lo sappiamo un po' di più. C'è un vulcano sotto al mare, è nel Tirreno meridionale e non se ne sapeva nulla. Cosa pensano gli italiani dell'innovazione? Da una ricerca del CNR sembra che abbiano le idee chiare, pur esprimendo diffidenze e incertezze. Tra le tante cose che si dicono sul ritorno al nucleare, c'è anche l'ipotesi di recuperare gli impianti di Caorso. È un progetto praticabile o privo di senso? Ciao Chiara! Buonasera Federico, buonasera a tutti. Chiara Albicocco è qui con me per parlare di una grande insalatiera astrofisica. Astronomica lanciata così per osservare l'universo, è una grande eccellenza italiana però. Ed è qui, no? In Sardegna. È qui in Sardegna, in provincia di Cagliari. Abbiamo già il nostro ospite. E certo che è il direttore del progetto del Sardinia Radio Telescope, il professor Nicola D'Amico. Buonasera. Buonasera. Buonasera D'Amico. Allora, insomma, 64 metri per 500 tonnellate, anche tutta la fase di costruzione della grossa insalatiera è stata veramente spettacolare. Lei c'era, no? Sì, certo, questa che voi chiamate insalatiera, noi chiamiamo cesto. Diciamo. Il cesto, certo. È la struttura di supporto del grande riflettore di 64 metri di diametro, quindi è una struttura reticolare di 64 metri di diametro del peso di 500 tonnellate, che costituisce il cuore di tutto il sistema ed è stata issata sopra la struttura di movimentazione del radiotelescopio di recente, alcune settimane fa, con una operazione abbastanza spettacolare. È la prima volta al mondo che un cesto di queste dimensioni viene issato in quota con una sola gru e intero, normalmente cesti di queste dimensioni vengono issati su a spicchi, a pezzi, e questo comporta poi ovviamente delle operazioni di assemblaggio e saldatura, completamento della saldatura in quota, che allungano notevolmente i tempi. Invece nel nostro caso l'avete montato a terra e poi sollevato. Allora, diciamo, il premontaggio a terra si fa sempre perché occorre verificare alcune problematiche geometriche, il cesto ha una forma insomma particolare eccetera, quindi normalmente si fa un preassemblaggio a terra, poi lo si taglia a spicchi e lo si porta su a pezzi. Questa volta invece è stato completato interamente a terra, quindi interamente saldato e issato su in un'unica soluzione. E questo è un'operazione estremamente efficace che è stata fatta appunto alcune settimane fa. Ad un'altezza di circa 40 metri, diceva? Sì, il cesto è stato posizionato un po' meno di 40 metri sulla ruota di elevazione, che è quella gigantesca ruota che consente poi di muovere il paraboloide in elevazione. Sappiamo che queste fasi sono state molto spettacolari. Quanto è durato? Ci sono state delle gru incredibili. Sì, dunque per questa operazione è stata chiamata una gru, e ce ne sono poche in Europa, della ditta Mammut, in particolare la Mammut Italia. La Mammut è una multinazionale che ha queste apparecchiature, queste gru in tutto il mondo. La Mammut Italia ha fornito questa gru, che è una gru da 100 metri e che da sola pesa circa 3.000 tonnellate, includendo tutto il contrappeso, tutto quanto, e ha una portata di 1.200 tonnellate. Un mostro proprio. Ecco, è un mostro. Poi l'operazione in sé è durata un paio d'ore. Il problema è che ovviamente occorre assolutamente evitare che si inneschino oscillazioni di questo gigantesco, perché 500 tonnellate sono una massa inerziale incredibile, una volta che comincia a oscillare non lo si ferma. Sarebbe ancora lì ad ondulare adesso. Ecco, quindi la gru cosa ha fatto? Lo ha sollevato circa un metro da terra, il cesto poi è stato stabilizzato con delle funi molto lunghe che gli operai di cantiere tenevano in tensione, e lentamente la gru ha cominciato a indietreggiare su questa passerella che è stata realizzata con delle travi di legno particolari, la gru non può puntare sul terreno perché si ingolferebbe, insomma sono 3.000 tonnellate, ci sono queste passerelle particolari di legno, sono traversine di ferrovia, insomma, e ha indietreggiato per 17 metri e questa operazione ha richiesto circa una mezz'ora, poi ha cominciato a sollevare il cesto pian piano fino a portarlo in quota. E lì c'è stata un'altra mezz'ora, 40 minuti credo, e poi ha cominciato a ruotare per posizionarlo sull'asse, diciamo, della portante. E poi lo ha calato lentamente, insomma, il tutto è durato un paio d'ore abbondanti. Il tutto non è concluso, perché adesso inizia la fase, diciamo, di precisione. Ecco, sì. Questa è la parte, diciamo, grossa, cioè la realizzazione della struttura meccanica. Adesso all'interno di questo cesto dovranno essere montati i 1.000 attuatori meccanici e i 1.000 pannelli che compongono la superficie riflettente. Lo specchio, chiamiamolo specchio, esattamente. La superficie riflettente è fatta di 1.000 pannelli e di 1.000 attuatori meccanici di precisione proprio per consentirne una deformazione dinamica che serve per compensare le deformazioni gravitazionali. Quando il paraboloide si sposta in elevazione, si abbassa, tende a deformarsi. Già. Questo farebbe perdere performance allo strumento. E per questo la superficie è, come si dice in gergo, una superficie attiva. Sì. E si muove. Si può introdurre una deformazione che compensa la deformazione gravitazionale. Questo è fatto da questi 1.000 attuatori meccanici, sono dei pistoncini, diciamo, che vanno su e giù, che sono al di sotto dei pannelli. Questa è un'operazione che inizierà ai primi di luglio e porterà via almeno 3 mesi circa per il solo montaggio. Si pensa che più o meno sarà attivo dal punto di vista proprio astronomico tra 6 mesi? Sì, perché diciamo oltre a questa fase di montaggio dei pannelli e attuatori c'è poi in parallelo il completamento di tutta la parte di impiantistica, i servomotori eccetera, e questo ci porterà fino a fine anno. A quel punto usciranno le ditte e entreremo noi con le nostre attività di messa a punto, che a sua volta richiederanno qualche mese, quindi diciamo, gradualmente a quel punto ci avvieremo verso l'operatività. Ecco, e a questo punto che cosa ci aspettiamo da Sardinia Radio Telescope? Ma guardi, questi sono strumenti formidabili per l'indagine dell'universo. L'universo alle onde radio si manifesta in maniera incredibile, cioè non tutto è visibile nell'universo a occhio nudo. O comunque con dei telescopi ottici, ci sono fenomeni che si manifestano attraverso l'emissione di onde radio e per questo è nata, diciamo, la radioastronomia, cioè l'osservazione dell'universo a onde radio, e per questo sono nate le reti di radiotelescopi di cui il Sardinia Radio Telescope fa parte. Ci sono altri radiotelescopi dislocati in varie parti d'Europa, ce ne sono altri 2 in Italia e questi radiotelescopi lavorano insieme simulando in qualche modo un gigantesco radiotelescopio. È una tecnica simile alla tecnica tomografica. In buona sostanza, sfruttando la rotazione della Terra, questi radiotelescopi dislocati in varie parti del pianeta consentono di fare una sorta di tomografia, diciamo, delle sorgenti lontane, quindi dare informazioni dettagliatissime. Va bene, noi credo che abbiamo detto. Sì, ci sentiamo tra 6 mesi sicuramente. Ecco, no? E lo so che magari non fate questa cosa, però io è chiaro, insomma, la prima foto di marziani che fate, mandatecela per favore. Sarà fatto. Grazie e buon lavoro. Buon lavoro, D'Amico. Grazie a voi, grazie, arrivederci. Le cattedrali della preistoria è un libro che vi porta nelle caverne preistoriche. Ascoltiamone un breve estratto. L'acqua gocciolava lentamente dalle stalattiti sul fondo della caverna, mentre noi cominciavamo a scivolare qui e là, trattenendoci a stento dal cadere man mano che avanzavamo sempre più in profondità nel buio della grotta. Facendo troppa attenzione al suolo, non saremmo riusciti a vedere per tempo un improvviso abbassamento del soffitto della grotta davanti a noi e a evitare di sbatterci la testa. Il percorso sotterraneo era estremamente infido. Poche persone lo attraversano e non c'è alcun ausilio per trovare la strada. Non ci sono sentieri segnati, non ci sono gradini o pavimentazioni, né illuminazione elettrica. Sussidi di cui ora sono dotate quasi tutte le grotte aperte al pubblico. In parecchi punti il percorso si ramificava,

poco fa. Incominciamo da attosecondi e femtosecondi, che sono gli strumenti di cui abbiamo assolutamente bisogno. Che cosa sono? Un attosecondo è un brevissimo intervallo di tempo, è un miliardesimo di secondo. Giusto per dare un'idea di cosa voglia dire, immaginiamo un intervallo di tempo di un secondo. Questo intervallo di tempo contiene un numero di intervalli di tempo della durata di un attosecondo all'incirca pari al numero di secondi che sono trascorsi dal Big Bang ad oggi. Veramente tanti. Veramente tanti. Il femtosecondo è un po' più lento, un po' più lungo? Un femtosecondo sono 1000 attosecondi. Ah, quindi tantissimo di più, insomma. Molto di più. Però siamo sempre in qualcosa che sembra impossibile poter maneggiare. Avete avuto bisogno di queste unità di misura per... lavorare su una cosa abbastanza interessante, cioè sull'elettrone, sul moto dell'elettrone, cosa che è abbastanza sconosciuta. Teoricamente un po' si sono fatti, insomma, dei conti, ma però dal punto di vista pratico, concreto, come si muove questo elettrone? Non lo sappiamo. Non lo sappiamo bene dal punto di vista sperimentale, proprio perché l'elettrone all'interno degli atomi, delle molecole eccitate, si muove ad una velocità estremamente elevata. Quindi solo con l'utilizzo di questi impulsi ad attosecondi, che sono stati sviluppati solo di recente, è stato possibile per la prima volta osservare in modo diretto il moto di elettroni all'interno di una molecola. Ecco, allora voi avete lavorato su una molecola, era lì interessante lavorare, su che molecola? La molecola di idrogeno, cioè la molecola più semplice in assoluto. Lì ci sono due elettroni? Due elettroni e due protoni. E lì cosa avete fatto? Con dei flash velocissimi, appunto, di durata brevissima, come gli attosecondi e femtosecondi, cosa avete combinato? Dunque, noi abbiamo investito una molecola di idrogeno con un impulso ad attosecondi che la ionizza, cioè strappa uno dei due elettroni che sono contenuti nella molecola. E a quel punto cosa avete? Un elettrone solo? Abbiamo un solo elettrone che comincia ad oscillare avanti e indietro fra i due protoni. A questo punto un secondo impulso di luce, un po' più lento appunto, con la durata di alcuni femtosecondi e opportunamente ritardato rispetto al primo, viene focalizzato sulla stessa molecola e agisce come una sorta di forbice atomica, dividendo la molecola ionizzata in due frammenti. Questi due frammenti sono: uno è un atomo di idrogeno, quindi un atomo neutro, senza nessuna carica netta, l'altro è un protone, quindi è una carica positiva. Supponendo questi impulsi laser siano polarizzati in una direzione orizzontale, il protone che viene prodotto in questo processo può essere messo a sinistra o a destra. Allora, se è messo a sinistra vuol dire che l'elettrone che era rimasto nella molecola è andato a finire sull'altro protone, quindi è stato emesso a destra. E invece se il protone è stato emesso verso la destra, noi sappiamo che l'elettrone è andato a finire a sinistra. Quindi abbiamo un moto, un modo diretto per controllare il moto dell'elettrone nella molecola. Questo, lei l'ha detto, ha fatto bene a dirlo, non è così facile da maneggiare, soprattutto radiofonicamente, però in sostanza voi avete lavorato col protone e l'elettrone come se fossero delle bocce di un biliardo e spostandone una vedete che cosa combina l'altra, dove si mette l'altra. Una cosa di questo genere. Il fatto di poter sapere come si è mosso quell'elettrone ci dà delle indicazioni su come in generale si muovono. Certamente. Questo è il dato interessante. E rappresenta il primo esempio di controllo diretto sulla corretta scala temporale del moto di un elettrone all'interno di una struttura così piccola come una molecola. Allora, questo già di per sé basta dal punto di vista, insomma, teorico, sperimentale, certamente a significare che abbiamo un grosso risultato. Ma l'orizzonte applicativo di una cosa di questo genere che maneggia, che è in grado di conoscere come si muovono gli elettroni, dov'è? Che cosa significa? Ma si possono fare tante cose. Ovviamente l'applicazione alla molecola di idrogeno è interessante dal punto di vista teorico ed anche sperimentale. Se ci dovessimo limitare alla molecola di idrogeno, probabilmente il risultato non sarebbe così importante. Ma la natura ci fornisce veramente un numero incredibilmente elevato di fenomeni in cui l'elemento base da cui nasce tutta una serie di, per esempio, le reazioni chimiche, il trasporto di informazioni in molecole biologiche, parte proprio dal moto degli elettroni. Ce ne sono tanti esempi, la fotosintesi,

e adesso sembra che sia giunta al termine. Una campagna che può avere effetti notevoli, infatti è dimostrato che l'estensione territoriale determina condizioni di vita migliori e quindi una crescita nelle dimensioni corporali dei maschi. Vi viene ora in mente che ciò significhi botte più efficienti. Esatto, è così. E poi maschi più prestanti significa anche maggiore attrattività per le femmine di altri gruppi limitrofi. Succede pure questo, infatti, un arrivo di nuove ragazze. Il risultato è che in gogo possono diventare completamente dominanti. Perché questo desiderio di espansione? Beh, noi umani facciamo queste cose per l'oro, il petrolio, i diamanti o per semplice e assoluto desiderio di potere. Qui ci si divide dagli scimpanzé. Infatti, intorno al territorio iniziale dei Ngogo stavano crescendo degli alberi di gelso, dei cui frutti i nostri scimpanzé sono golosi, e quindi si sono messi a menare le mani, che nel loro caso, è bene ricordarlo, sono praticamente quattro. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Sì, sotto il mare, qui da noi, nelle acque calabre, c'è un vulcano. Adesso ve ne parla Chiara Albicocco. È stato scoperto da un gruppo di ricercatori italiani un vulcano sconosciuto fino ad ora. È completamente spento, quindi vi diciamo subito che non c'è nessun pericolo, ed è stato individuato sotto le acque del Tirreno meridionale. Tra gli studiosi che l'hanno scovato c'è anche la dottoressa Rosanna De Rosa, che è qui con noi questa sera ed è il direttore del Dipartimento di Scienze della Terra dell'Università della Calabria, nonché vulcanologa. Benvenuta, professoressa Mebius. Buonasera. Come mai, professoressa, nessuno aveva mai individuato prima questo vulcano, che si trova precisamente dove? Allora, si trova precisamente al largo di Capo Vaticano ed è a 120 metri di profondità, ha un'estensione di 15 chilometri. In realtà le carte magnetiche già nel 2000 evidenziavano la presenza di una piccola anomalia magnetica nell'area, ma diciamo era stata sempre sottovalutata. L'indizio principale che ha poi orientato la ricerca è stato essenzialmente quello di un ritrovamento a terra nella zona di Capo Vaticano di una sequenza di 6 metri di materiale pomigio. Sono state trovate pietre pomici? Una vera e propria cava. E allora a quel punto a qualcuno si è accesa la lampadina? Certo, sì, questo ha fatto accendere una lampadina. Naturalmente abbiamo inizialmente eseguito delle indagini a terra alla ricerca di questo vulcano, che comunque doveva essere presente in zona, anche perché trovare materiale pomigio sulle spiagge calabresi è abbastanza comune. Sono le pomici che provengono dalle isole Eolie. Dalle Eolie, sì. Ritrovare, sì, certo. Ritrovare queste pomici a 600 metri d'altezza alla sommità di Capo Vaticano era qualcosa di insolito, ecco, sì. Di insolito, e comunque questo il vulcano che aveva prodotto queste pomici doveva essere molto più antico del vulcano, dei vulcani oggi attivi nel Tirreno meridionale, cioè i vulcani delle Eolie. Sono molto più recenti, diciamo. Ecco, è un vulcano molto vecchio. Quando è stato attivo? La sua attività, tra 1.000.000 anni e 760.000 anni fa. Ok, quindi è passato un bel po'. È passato un bel po', sì, anche se geologicamente è passato poco, nel senso che se pensiamo che la Terra c'ha 4 miliardi e mezzo di anni. È vero. 4.000 anni sono... Geologicamente non è così vecchio. No, geologicamente è molto giovane. Ecco, da quel momento che tipo di indagini avete fatto per, scoprire la posizione esatta? Nella terza fase della ricerca un ruolo importante è stato giocato dai ricercatori dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, in particolare da Guido Ventura, che ha coinvolto i suoi colleghi Veritis, Schiappini e altri degli NGV, convincendoli dell'esistenza di un probabile edificio vulcanico al largo di Capo Vaticano, e quindi è stato avviato sono stati avviati dei rilievi aeromagnetici, cioè un elicottero, sono stati effettuati dei voli con un elicottero sul quale era montato un magnetometro, mm-hmm. e grazie a queste analisi sofisticate si è riuscita a individuare questa grossa anomalia proprio nell'area prospiciente del Capo Vaticano. Ecco, poi per chi fosse curioso, sul nostro sito può trovare l'immagine che ci fa capire dove ci sono delle macchie di colore che rappresentano appunto le anomalie magnetiche, si può capire esattamente dove è posizionato il vulcano. E con questo tipo di indicazioni, con questa scoperta che immagino per un vulcanologo sia molto importante, che cosa cambia? Cambia molto. Diciamo che la presenza di un vulcano in prossimità delle coste calabresi innanzitutto ci dice che il vulcanismo delle Eolie, che pensavamo fosse diciamo si estendesse fino a Panarea, Stromboli, in realtà 1 milione d'anni fa, fino a 760.000 anni fa, comunque continuava fino alla costa calabra. Quindi in realtà la zona vulcanica o diciamo geologicamente più attiva si estende più a sud. Più a sud, più a est, diciamo, fino alla costa calabra. E questo, la presenza di un vulcano in quest'area cambia un po' l'evoluzione geodinamica del terreno meridionale. Apre nuove ipotesi sull'origine del vulcanismo delle Eolie. Per Capo Vaticano è comunque anche importanza, perché chiaramente avere un corpo magmatico in quell'area fa vedere sotto un'altra luce la potenzialità geotermica, per esempio dell'area stessa di Capo Vaticano. Ci possono essere delle mineralizzazioni che potrebbero essere sfruttate. Questo vulcano potrebbe rappresentare un vero e proprio geosito, un'area marina anche da salvaguardare. Certo, oltretutto è vicinissima alla costa calabra. Capo Vaticano, dal punto di vista turistico, è una delle aree calabresi che è più attiva, anche le bellezze paesaggistiche sono particolarmente rilevanti. Ecco, a livello invece di pericolo è completamente spento. A livello di pericolo, cioè il vulcano, la struttura vulcanica è esattamente lungo la faglia che ha dato il terremoto del 1905. È stato un terremoto che in Calabria ha prodotto molti danni. Circa 600 morti anche. Gamme. Sì, sì, morti, molti paesini distrutti. E c'è legame tra questo sisma? No, i dati che abbiamo, che naturalmente l'INGV ha particolarmente studiato questa possibilità, mostrano che non c'è nessun legame tra il terremoto e la struttura vulcanica. Ok, quindi è lì da salvaguardare, ma non ci farà del male, va bene. No. Grazie, dottoressa, la lascio e le auguro buon lavoro. Se ci dovessero essere novità su questo fronte, non esiti a chiamarci. Va bene, arrivederci, grazie. 4.000 persone italiane hanno detto la loro opinione sull'innovazione nel nostro paese. È stata una ricerca importante, quindi con un campione vasto. Ve ne parla Barbara Gallavotti. Abbiamo parlato molto di innovazione qui a Mebius, ma sempre o quasi sempre dal punto di vista degli esperti. Cosa ne pensano invece le persone che nel campo dell'innovazione non lavorano? Ce lo racconta una indagine sulla cultura dell'innovazione in Italia, realizzata per il secondo anno consecutivo dall'Istituto per le ricerche sulla popolazione e le politiche sociali del CNR, in collaborazione con la Fondazione Cotec e la rivista Wired. L'indagine si è svolta intervistando un campione di circa 4.000 persone con un'età compresa fra i 30 e i 44 anni, e a raccontarcela è Sveva Veduto, direttore appunto dell'Istituto per le ricerche sulla popolazione e le politiche sociali. Buonasera. Buonasera. Allora, qual è stato l'atteggiamento generale dei vostri intervistati verso l'innovazione? È un atteggiamento in linea generale molto positivo. L'innovazione è vista come un'attività volta al cambiamento, associata a novità, sviluppo, a miglioramento, al benessere, all'evoluzione. Direi che nell'immaginario collettivo è qualcosa intesa a migliorare la vita nel futuro ed anche un mezzo per uscire dalla crisi. Ma cosa intendono in generale gli italiani per innovazione? C'è chiarezza sul significato del termine? Ma io direi abbastanza. Noi abbiamo fatto questa domanda iniziale proprio per lasciare la libertà di esprimere quello che secondo gli italiani è l'innovazione, e sostanzialmente l'innovazione per gli italiani è un'equazione abbastanza diretta con la ricerca, ma anche con altre parole chiave indicate insistentemente, quali appunto scienza, conoscenza, sapere. Molti correlano l'innovazione direttamente con la tecnologia, con quelle più largamente disponibili oggi: computer, telefonini, informatica, elettronica. Direi che però i riferimenti diretti agli aspetti economici sono minori rispetto a quelli relativi al benessere generale che l'innovazione può riversare sulla società. Ecco, a questo proposito ci sono dei distinguo delle innovazioni a cui gli intervistati sono favorevoli e altre che proprio non vogliono vedere? Ma guardi, non abbiamo fatto una domanda così diretta, però abbiamo fatto delle domande dalle quali questo può essere desunto. Diciamo che gli aspetti più positivi, per esempio abbiamo nominato l'utilizzazione delle cellule staminali e queste sono colte per esempio come un'occasione importante da cogliere da una larga percentuale. Per esempio invece un'area verso la quale è risultato ben disposto una percentuale molto ridotta, un 24% è l'area del nucleare, e quella diciamo è una polarizzazione molto acuta in cui viene percepita l'energia nucleare e gli OGM per esempio con dei livelli di pericolosità maggiori, mentre invece per esempio le energie solari, le energie rinnovabili sono tra quelle che hanno ricevuto maggiore consenso. Dai vostri dati emerge in particolare il timore per le cosiddette trappole tecnologiche. Che cosa sono queste trappole tecnologiche? Ma guardi, questo abbiamo voluto chiamare trappole tecnologiche questo aspetto qui. Noi abbiamo chiesto, vorrei premettere che il rapporto aveva quest'anno un taglio di genere e un'attenzione particolare al ruolo delle donne nella scienza e nella tecnologia. Quindi abbiamo chiesto se gli italiani ritenessero che qual era l'atteggiamento in questo senso, e loro ritengono che gli uomini sanno sfruttare meglio delle donne i vantaggi della tecnologia nell'ambiente di lavoro e che la tecnologia in parte è vero che è un'opportunità per diminuire lo svantaggio delle donne nel mondo del lavoro, nell'altro è anche vero che essere sempre connesse, essere sempre rintracciabili in qualche modo determina un aumento del tempo dedicato al lavoro che può non essere una scelta. Certo, erode del tempo libero perché ecco, c'ho sempre esatto, occasione di lavorare. In qualche modo questa è una piccola possibile trappola tecnologica. Visto che parliamo di donne, quindi in particolare qual è il loro atteggiamento verso l'innovazione? Ma l'atteggiamento è sicuramente favorevole, è un atteggiamento di apertura e di coinvolgimento, però direi favorevole con cautela, nel senso che soprattutto le donne, ma in generale tutti i rispondenti, sono molto cauti riguardo alla velocità nel rendere disponibili sul mercato prodotti e sistemi innovativi. Diciamo che il principio di precauzione è quello che prevale. Però sicuramente l'atteggiamento è di grande favore. C'è anche questo aspetto curioso per cui secondo voi la percezione del pubblico è che la tecnologia abbia migliorato molto la nostra vita negli ultimi 100-200 anni, ma tuttavia sia relativamente incapace di farlo altrettanto per il futuro. Ma questa in effetti è una risposta che in qualche modo non ci aspettavamo, nel senso noi abbiamo fatto un piccolo parallelismo tra la capacità della tecnologia di migliorare la vita delle madri e la vita delle figlie. Sicuramente tutti si sono espressi molto positivamente sulla vita sulla tecnologia, l'influenza della tecnologia nella vita delle madri, sul futuro c'è molta più cautela e si pensa che addirittura il 48% pensa che non ci sarà una qualità della vita migliore per le donne nel futuro. Questo in qualche modo noi pensiamo sia stato anche influenzato da questa dalla cautela generale e da una incombente, come dire, sensazione di crisi che può avere determinato questo aspetto un po' più cauto, se non negativo, sul futuro. Forse anche la difficoltà a immaginare degli avanzamenti paragonabili a quelli che abbiamo vissuto negli ultimi anni, forse tutto è stato inventato, la percezione è questa. Ma delle volte sì, potrebbe anche essere questo. Nel vostro campione c'è un sottogruppo che avete chiamato i critici e non è un piccolo sottogruppo, è circa la metà del campione. Chi sono? Sì, noi abbiamo individuato questo sottogruppo perché sono le persone che si sono espresse criticamente per l'appunto sull'operato sia del governo che dell'opposizione, quindi non sono persone schierate, sono persone che abbiamo rivisto una maggiore predisposizione favorevole all'innovazione, si pongono nettamente contro gli stereotipi di genere, hanno una visione complessa dell'innovazione, per esempio sono molto più favorevoli all'uso delle cellule staminali, sono molto più preoccupati rispetto al nucleare, sono molto informati ma vogliono ancora più informazione rispetto alle tecnologie, all'innovazione. Diciamo è un campione di popolazione più attenta e più consapevole. Grazie, Sveva Veduto, buonasera. Buonasera, grazie. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Oh, eccoci qua con la soluzione del quiz, che era: che odore ha la luna, polvere da sparo, tufo, argilla? Ovviamente nessuno l'ha direttamente odorata, nessuno fra gli unici 12 astronauti che vi hanno posato un piede sopra, erano chiusi in tute sigillate, però la polvere che ricopre tutto il suolo lunare è molto appiccicosa e quindi è rimasta sulle tute in abbondanza. All'interno delle capsule spaziali, quando si sono tolte le tute, gli astronauti si sono accorti che la luna sa di polvere da sparo. Il motivo è che questa polvere è in gran parte costituita da biossido di silicio creatosi dalle esplosioni al suolo delle meteore che si schiantarono in gran numero sulla superficie lunare. Quindi niente tufo, niente argilla, polvere da sparo. E adesso proseguiamo con la nostra trasmissione. Si sta parlando di centrali nucleari, come ben sapete, quelle nuove, ma avrebbe senso dare un'occhiata a qualche vecchio sito, a qualche vecchia centrale per vedere se ci si può combinare qualcosa? Ecco che spunta Caorso. Ve ne parla Maurizio Melis. Mentre il Ministero dell'Ambiente cerca di costituire l'Agenzia per la Sicurezza Nucleare, che però ancora non c'è, si rincorrono varie voci, varie ipotesi su quelli che saranno i futuri siti in cui verranno installati gli impianti nucleari. Cerchiamo allora di fare un po' di chiarezza sul tema insieme al nostro ospite, che è il professor Marco Ricotti, che è docente di impianti nucleari al Politecnico di Milano. Buonasera Ricotti. Buonasera a lei e a tutti gli ascoltatori. Allora, intanto una delle voci, diciamo, che circolano più insistentemente è che in qualche modo sarebbe meglio riutilizzare i siti che erano già stati individuati a loro tempo per ospitare queste centrali nucleari. Ma sono veramente così pochi i siti in Italia che possono ospitare impianti nucleari? Ma potrebbero non essere così pochi i siti idonei, o meglio le aree idonee per ospitare impianti nucleari. Se seguiamo le linee indicate dal decreto legislativo promulgato all'inizio del 2010, vediamo che le tematiche da affrontare per una valutazione di idoneità delle aree sono le stesse che vengono utilizzate nelle normative internazionali. Quindi, ecco, quali sono i parametri fondamentali che si verificano? Ma direi che classicamente si analizzano le caratteristiche di un'area e quindi di un sito dal punto di vista della rischiosità sismica, della disponibilità di acqua di raffreddamento, della vicinanza ad aree densamente popolate, a eventi naturali che possono avere anche un significato catastrofico come i tornado, gli uragani, anche se in Italia credo che questi siano molto molto molto rari. Ecco, forse è più importante in Italia il discorso idrogeologico. Il territorio italiano non sta molto bene da questo punto di vista. Ma non sta molto bene, ma devo dire che sta meglio di altri. Da questo punto di vista, se ci confrontiamo con il Giappone, che è un territorio direi abbastanza sismico, certamente più cintura di fuoco, certo. Ecco, i giapponesi operano attualmente oltre 50 impianti nucleari sul loro territorio. Ecco, allora l'ipotesi, come dire, di ritornare sui siti già identificati, che tipo di vantaggi darebbe eventualmente? Ma eventualmente potrebbe dare un vantaggio in termini di tempi e costi ridotti rispetto alla qualifica, la valutazione di un'area cosiddetta vergine da questo punto di vista, quindi non dà dei vantaggi assoluti o garantiti. Anche nel caso dei vecchi siti nucleari bisognerebbe comunque effettuare o ad aggiornare una valutazione puntuale sulle loro attuali caratteristiche. Certo, probabilmente i tempi e i costi per un'analisi del genere potrebbero essere inferiori. L'elemento più significativo è legato più ai costi o ai tempi? Ma forse più i tempi. Potrebbe essere un guadagno in termini temporali, perché i costi, ecco, se li confrontiamo con i costi di costruzione della centrale, direi che sono molto molto contenuti. Stiamo parlando di qualche decina di milioni, Potrebbe essere un ordine di grandezza ragionevole. Di questo genere, contro miliardi che costa un impianto nucleare. Ecco, i criteri però sono cambiati rispetto agli anni 70, perché ovviamente, soprattutto per chi vive intorno a queste zone, c'è una certa fibrillazione, no? Sono cambiati significativamente dagli anni 70, o in fondo sono rimasti poi effettivamente quelli, per cui... No, i parametri, le caratteristiche del territorio che vengono analizzate direi che sono quelle che sono anche indicate dall'Ente Internazionale dell'Energia Atomica con sede a Vienna come linea guida internazionale, quindi direi niente di completamente nuovo. Certo, sono differenti invece le modalità di implementazione di queste regole. Faccio un esempio, sì. In Francia ad esempio non vengono indicati dei limiti sul grado di pericolosità sismica del territorio, si fa molto pragmaticamente un confronto tra la sismicità del territorio e la capacità del progetto nucleare di sopravvivere a quell'evento sismico. A quell'evento sismico, prendendosi ovviamente dei margini di sicurezza. Prendendosi tutti i margini di sicurezza che sono tipici della progettazione nucleare, che come ben sappiamo sono molto ampi. Ecco, un'altra voce che circola è quella della possibilità di riattivare Caorso. Ecco, è possibile riattivare Caorso? Che cosa comporterebbe riattivare Caorso? Ma per rispondere a una domanda del genere bisognerebbe effettuare un'analisi molto dettagliata ed approfondita sia dal punto di vista tecnico, quindi della fattibilità tecnica, che della convenienza economica. Quindi direi che non si può escludere a priori un'ipotesi del genere, ma neanche appoggiarla preventivamente senza le verifiche del caso. Ecco, ecco, ma che cos'è che bisognerebbe verificare? Ma bisognerebbe verificare innanzitutto la convenienza economica di un riavvio di questo tipo, ovviamente a valle di una valutazione tecnica, quindi quali sarebbero le azioni tecnologiche da porre in essere per rendere di nuovo quell'impianto idoneo al funzionamento, quindi garantendo il massimo grado di sicurezza, ad esempio, quindi implementando sistemi di sicurezza o procedure ulteriori rispetto a quelli che ci sono già, perché comunque è aumentato il livello di al sicurezza. Al tempo prima della fermata già si era stato fatto un lavoro di miglioramento del grado di sicurezza di Caorso. Bisogna capire se l'eventuale prossima agenzia di sicurezza nucleare italiana metterà dei vincoli ancora maggiori, quindi più stringenti, certo. Compatibili con i livelli di sicurezza molto elevati, ad esempio, dei reattori di nuova generazione. Va bene, grazie Ricotti. Grazie a voi. Gli odori della benzina, dell'asfalto o di altre sostanze possono causare disturbi fisici invalidanti, quali capogiri, nausea, sensazione di bruciore agli occhi o alle mucose, aumento del battito cardiaco, anche eccessiva sudorazione o talvolta anche disturbi psicologici come perdita di memoria e, in casi molto gravi, forme di depressione. Si tratta della Multiple Chemical Sensitivity, MCS, cioè una sensibilità eccessiva agli agenti chimici. La MCS è un disturbo molto debilitante che colpisce in prevalenza giovani donne, fra l'altro caratterizzato appunto da questa intolleranza verso svariate sostanze olfattive, e può derivare da cause organiche così come da cause psicologiche. Ma come distinguere i casi nei quali la patologia risale a una oppure all'altra causa che vi ho detto? I sintomi neurovegetativi, fisici o psicologici, potrebbero essere causati da un danno al sistema immunitario, da particolari allergie o da danni al sistema olfattivo, ma possono anche essere ascritti a cause psicologiche. Tre ricercatori, due italiani, Gesualdo Zucco del Dipartimento di Psicologia Generale dell'Università di Padova e docente alla Facoltà di Medicina della stessa città, e Carmelo Militello del Dipartimento di Scienze Chirurgiche e Gastroenterologiche, e poi uno statunitense, Richard Doty, direttore del Centro sui Disturbi Olfattivi e Gustativi dell'Università della Pennsylvania. Questi tre ricercatori hanno fatto una serie di esperimenti su una paziente, ma è stato un caso solo per evidenziare dei dati interessanti, una paziente affetta da MCS. Questa persona è stata esposta a sostanze da lei ritenute nocive, per le quali, cioè, lei segnalava quei disturbi fisici cui prima accennavo, ma è stata esposta anche ad altre sostanze assolutamente innocue. Naturalmente non le veniva mai detto di che sostanze si trattasse. Non solo, le informazioni date alla paziente non sempre corrispondevano al tipo di stimolo cui veniva sottoposta. Ad esempio, la si metteva in contatto con una sostanza nociva, dicendole invece che si trattava di un elemento innocuo. Bene, i risultati dell'indagine hanno evidenziato che la paziente veniva influenzata nei giudizi dal tipo di informazione che le veniva fornita dagli esaminatori. Più precisamente, stimoli potenzialmente dannosi presentati come innocui davano luogo a un minor numero di sintomi e venivano giudicati meno intensi, e naturalmente vale anche il viceversa. Conclusione: certi effetti fisici possono essere determinati da cause puramente psicologiche, non da problemi del sistema immunitario o da cause neurotossiche. Smilodon fatalis è il nome scientifico di questo animale scomparso. Non so dirvi se quel fatalis rimandi al fatto che si tratti di uno dei più terribili predatori mai esistiti. Probabilmente vi è più noto come la tigre dai denti a sciabola. Percorreva alcune regioni del mondo, il Nord e il Sud America, per esempio, fino a 10.000 anni fa, assalendo bisonti, cammelli, mammut. Ma era davvero terribile. Questo animale, lo si capisce dal nome, era provvisto di due enormi canini, una trentina di centimetri l'uno, acuminati. Era questa l'arma letale usata dalla tigre? Ma ci sono molti dubbi ora che un gruppo di paleontologi del National Evolutionary Sciences Center, siamo nel North Carolina, negli Stati Uniti, ha svolto un lavoro attento analizzando i denti della tigrone estinta, scoprendo che, questo è davvero divertente, erano più fragili di quelli dei gatti che alla sera ci teniamo sulle ginocchia d'inverno, non di questi tempi, mentre si guarda la TV. Il motivo di questa fragilità è emerso evidente analizzando i raggi X, resti di tigre dai denti a sciabola e canini di gatti nostrani, cioè i canini delle tigre dai denti a sciabola e quello dei nostri gattoni. Che cosa è emerso? Si è visto che i nostri gatti hanno sezioni circolari dei denti, e questo significa che qualunque forza, in qualunque direzione la si voglia esercitare, ha a disposizione la stessa, mettiamola così per semplicità, la stessa quantità di dente, perché è circolare la sezione del dente. La tigre invece aveva una sezione ovale. Con sforzi laterali la massa dentaria era inferiore, quindi immaginiamoci il tutto usando il morso come arma d'attacco e quindi come qualcosa che deve sopportare il primo sforzo aggressivo dell'animale, ebbene era probabile che i denti si rompessero. Ora, le tigri dai denti a sciabola sono stati animali sostanzialmente sdentati? No, non erano così stupidi probabilmente. Gli stessi paleontologi hanno verificato che le sue zampe anteriori avevano una struttura ossea potentissima, quindi la preda era catturata in tutta la prima fase con delle possenti zampate. Poi arrivava il morso, quando movimenti consistenti del bufalo o del mammut erano, ahimè per loro, non più possibili. Come altre volte, devo dirvi che quello che avevamo da raccontarvi ve l'abbiamo raccontato. Questo era dunque Möbius in questa puntata di metà luglio 2010. Buona serata a tutti e a tutte, ci sentiamo fra 7 giorni. Radio 24 e Fondazione Sigma Tau vi hanno presentato Möbius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza.